Arrotino, per amico ogni giorno tu vai lungo le strade, vagabonda tu sempre sarai delle contrade, il tuo semplice cuore lo sa, si perderà nella città. Arrotino, la fanciulla che amavi perché diritti non osa, che il suo amore non era per te, è un'altra sposa e distrugge per sempre la tua felicità. E lei lo sa, e lei lo sa, mentre affilo le forbicine per tagliare la veste nuziale, il mio cuore sta tanto male, dal dolore ne morirò. Arrotino, che lamingo ogni giorno tu vai lungo le strade, vagabondo per sempre sarai delle contrade, il tuo semplice cuore lo sa, si perderà nella città. Mentre affilo le forbicine per tagliare la veste nuziale, il mio cuore sta tanto male, dal dolore ne morirà. Arrotino, che ramingo ogni giorno tu vai lungo le strade, vagabondo tu sempre sarai per le contrade, il tuo semplice cuore lo sa, si perderà nella città.